GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il dibattito politico e civile in regione è animato dalla partita tra gli azzurri e la nazionale israeliana che si giocherà in ottobre a Udine, dalla questione della cooperazione economica con l'Egitto e la tragedia di Giulio Regeni. A Monrupino sono in corso le nozze carsiche, a cui partecipa anche la presidente slovena Natasha Pirc-Musar. L'Udinese stasera giocherà contro l'Inter a Milano, la Triestina invece ieri ha pareggiato con il Lecco. Buongiorno dalla TGR del Friuli Venezia Giulia. Il tempo, cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 23,5 gradi, mare calmo con una temperatura di 24,5 gradi, a Gorizia 24 gradi, a Udine 23,5, a Pordenone 21,5, a Tolmezzo e Tarvisio 19, a Forni di Sopra 18,5 gradi, sul Piancavallo 17 gradi, a Sappada 13, a Lignano 24, a Grado 23,5. La temperatura del mare in entrambe le località balneari era di 25 gradi. Oggi pomeriggio bel tempo con venti di brezza, sui monti modesti annuvolamenti locali, temperatura nella norma del periodo. Domani sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, in pianura e nel Tarvisiano cielo da poco nuvoloso a variabile, sulle prealpi e in Carnia da variabile a nuvoloso. Venti deboli, lo zero termico oltre i 4.000 metri garantirà stabilità fino a sera. La politica e la giunta regionale ha approvato lo scorrimento dei graduatori e già pubblicate la programmazione di nuovi bandi in attuazione della legge regionale sullo sport. L'assessore con delega Anzil ha detto che con queste misure la regione garantisce un aiuto concreto al mondo sportivo del Friuli Venezia Giulia. Sono stati disposti ulteriori finanziamenti per i lavori di ordinaria manutenzione degli impianti sportivi. Il primo bando era rivolto alle associazioni e società sportive non professionistiche e il secondo ai comuni. Allo stanziamento iniziale di 1 milione di euro ne sono stati aggiunti altri 2 in manovra. Sono stati stanziati poi più di 17 milioni di euro per interventi su impianti sportivi da attivarsi con l'articolo 3 della legge 8 del 2003. La parte più consistente, pari a 15.299.000 euro, verrà infine utilizzata per l'attivazione nel corso dell'anno di una nuova linea contributiva destinata al finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà pubblica o appartenenti ad associazioni o società senza fini di lucro. La giunta regionale ha anche approvato lo schema di convenzione tra la regione, il comune di Amaro e Autostrade per l'Italia per la definizione delle attività per la messa in sicurezza del versante montuoso adiacente all'autostrada A23 Udine-Tarvisio, investito dalla frana avvenuta il 1 aprile dello scorso anno. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante. La regione coordinerà gli enti per un intervento strutturale per assicurare la stabilità del versante. E grande festa oggi nel comune di Monrupine, sul Carso Triestino, per le nozze carsiche. La celebrazione è iniziata poco dopo le 11 nella chiesa che si trova sulla rocca. Gli sposi sono Tina Forgi e Thomas Feliconia. Conclusa la cerimonia, il corteo nuziale si avvierà verso il paese di Repen per la consegna simbolica della nuova casa agli sposi alle 13.30. Alla festa è presente anche la presidente slovena Natasha Pirc-Musar. 3 anni dopo torna il rito delle nozze carsiche a Monrupino e, come 3 anni fa, è presente la massima autorità della Repubblica di Slovenia. Allora era Borut Pahor, oggi Natasha Pirc-Musar. La presidente è stata accolta nella piazza centrale di Repe, tra gli altri dall'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che è la delega alle lingue minoritarie, e dalla sindaca di Monrupino Tania Cosmina. Pirc-Musar è stata poi accompagnata nella visita del borgo, in particolare della casa carsica costruita nel 1968 per preservare lo stile architettonico del luogo che la modernità rischiava di cancellare per sempre. Successivamente furono istituite appunto le nozze carsiche, un matrimonio tra 2 persone appartenenti alla comunità di lingua slovena che riprende le antiche tradizioni. Ma non è un semplice sposalizio, è un autentico momento di festa che dura diversi giorni per l'intera comunità, una celebrazione che unisce il territorio anche al di là della divisione del confine, in un contesto in cui la chiusura della carreggiata dell'autostrada 4 ha fatto emergere un grosso problema di viabilità a ridosso della frontiera, con difficoltà per pendolari e trasporto delle merci. A tal proposito, sia Roberti sia Cosmina hanno parlato dell'importanza che il dialogo continui. È attesa a breve, invece, una dichiarazione della presidente Pirc-Musar. Monrupino, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La partita tra gli azzurri e la nazionale israeliana, che si giocherà a Udine il 14 ottobre, ma anche il caso Regeni e la cooperazione economica con l'Egitto animano il dibattito politico e civile in regione. Due questioni di politica internazionale movimentano la fine dell'estate friulana. Da un lato la partita di Israele del 14 ottobre allo stadio Friuli, dall'altro l'invito di una delegazione egiziana per un meeting ad Aquileia, a due passi da casa Regeni. A un mese e mezzo dalla partita di qualificazione ai mondiali crescono le firme della raccolta Stop the Game, arrivate a quota 20.000. A partecipare attivamente tutta la sinistra di AVS Possibile, che ha ricordato l'uccisione di diversi sportivi gazawi, tra cui l'ex calciatore Al Obeid, nel corso dell'attività dell'esercito israeliano nella striscia. L'attacco è contro il ministro allo sport Abodi, che si era detto contrario all'esclusione dello Stato ebraico dalle competizioni, ma anche contro la coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia Esther Soramel, che aveva parlato di guerra di sopravvivenza. Le manifestazioni di protesta anche quest'anno, come già accaduto lo scorso autunno nel corso della stessa partita, ci saranno. La mobilitazione con oltre 2.000 manifestanti si era svolta senza alcun episodio di violenza e la macchina della sicurezza aveva funzionato tanto allo stadio quanto in centro. Sinistra attacco anche ad Aquileia, ma contro l'amministrazione che ospiterà una delegazione egiziana nel corso del meeting su religione e cultura Aquileia più Alexandria dal 2 al 5 settembre. Che sindaco di Aquileia, a 5 chilometri di distanza da dove abitava Giulio Regeni e dove abitano tuttora i suoi familiari, abbia avuto la bella pensata di organizzare un meeting con una delegazione ufficiale egiziana è un fatto che ci indigna profondamente, ha tuonato Nicola Fratoianni di AVS, con il consigliere regionale Furio Honsel di Open Sinistra FVG, che sottolinea che non si debba mai cedere ad altri interessi quando in gioco la giustizia e la verità, mentre Maria Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, parla di scelta inopportuna. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un intervento insolito ieri sera dei vigili del fuoco di Pordenone. Un gattino, Caccio il suo nome, era rimasto bloccato all'interno di una tubazione sul greto del torrente che attraversa Polcenigo. Trovato impaurito e infreddolito, lo hanno soccorso gli specialisti fluviali, che si sono calati in acqua recuperandolo e riconsegnandolo al proprietario. E per lo sport, l'Udinese giocherà stasera a San Siro contro l'Inter. Fischio d'inizio alle 20.30, la Triestina invece ieri ha pareggiato al Rocco 1-1 contro il Lecco. Alla seconda di campionato arriva già una Mission Impossible. Un'Udinese ancora in costruzione è impegnata a San Siro contro i vicecampioni d'Italia ed Europa, che all'esordio hanno strapazzato il Torino dimostrando di essere tutt'altro che in disarmo. La partita con il Verona pareggiata lunedì sera ha confermato i problemi soprattutto in fase realizzativa della squadra di Runjajic. Andiamo a Milano senza nulla da perdere, ha detto l'allenatore in conferenza stampa, prima di ribadire l'importanza per questa squadra dell'affetto del pubblico, testimoniato dall'allenamento a porte aperte di giovedì. E anche se non si è detto completamente soddisfatto della prestazione contro l'Hellas, il tecnico ha spiegato che stasera ci saranno piccoli cambiamenti, ma che non vuole stravolgere la squadra, con un mercato che, ha detto ancora Runjajic, non è ancora chiuso. Abbiamo una linea chiara in mente su cosa ci serve, ha concluso il tecnico, ma bisogna essere pazienti. In Serie C intanto esordio casalingo per la Triestina, che ha pareggiato 1-1 contro il Lecco, senza il pubblico rimasto fuori per protesta contro una situazione societaria per la quale, come riferivamo ieri, qualche sbocco per fortuna si vede, con l'atteso arrivo di nuovi finanziatori e di relativi fondi per almeno 7 milioni. I lombardi erano andati in vantaggio a metà ripresa con Ferrini, lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area dopo un batti e ribatti che aveva visto Matosevic già impegnato a respingere una prima conclusione. Il pareggio 7 minuti dopo, azione sulla sinistra, sull'asse Tonetto Ionita, cross a rasoterra dal fondo raccolto in aria da D'Urso, che si gira verso la porta con controllo e insacca con un mancino leggermente sporcato da un difensore. Un punto che è poco, vista la mole di gioco sviluppata e visto anche che gli alabardati partono già da un meno 7 in classifica, che potrebbe ulteriormente aggravarsi con nuovi punti di penalizzazione. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via il 27° Festival Scacchistico Internazionale Città di Trieste, uno dei tornei più affollati del settore a livello nazionale, con 250 preiscritti in aumento del 50% rispetto alla scorsa edizione. Al via 9 grandi maestri, 20 maestri internazionali e altri giocatori titolati che si affronteranno nei 9 turni del torneo Master in programma nel capoluogo giuliano fino al 5 settembre nelle sale del Magazzino 26 in Porto Vecchio, 40 i paesi rappresentati. Oltre al torneo Master, la sfida più impegnativa, che ha richiamato al momento 130 giocatori che saranno sulla scacchiera 7 giorni per 9 turni di gioco, ci sarà un torneo B intitolato a Libero Ezora Polo e Azzet, il torneo C per amatori meno esperti. Questa era l'ultima notizia, la parte tecnica è stata curata da Federico Comar, in redazione Laura Sarasini, io sono Walter Scherk, vi auguriamo una buona continuazione della domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.